Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e andremo avanti fino alle ore 21:30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Questa era la sigla di inizio trasmissione, ovvero il brano Retribution dei Behind Enemy Lines, trasmissione che inizia ora e andrà avanti fino alle ore 21:30, che trasmissione che si chiama Zardins Magnetics. Stiamo trasmettendo da Udine, da Radio Onde Furlane, e andremo, come già detto, fino alle ore 21:30, ma la cosa importante è che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. E andiamo ora all'ascolto, anzi una presentazione, non vi presentiamo una delle ultime uscite nel campo molto variegato del punk hardcore e dell'anarcho-punk, delle autoproduzioni, ma andiamo all'ascolto di una band ormai datata che è esistita dall'incirca metà anni 80 in poi, dal loro album datato 1987 ci ascoltiamo alcuni brani dei Civilized Society. Questo è il loro album Violent Sax. We'll be right back. Beh, rimaniamo ancora all'ascolto di questa band inglese, i Civilized Society, e dal loro album datato 1987 che si chiamava Violent Sax. Civilized society, that is. So is that, actually, as a matter of fact. They move very quickly, these people. Benvenuto a tutte e tutti chi ci sta ascoltando da sugli FM, sui 90 MHz per Udine e dintorni, qui su Zardins Magnetics. Sono le 20:17 di giovedì 26 gennaio e per questa nuova puntata di Zardins Magnetics, dicevo, e quindi vi diamo benvenuto e andiamo, insomma, ad affrontare un po' gli argomenti di stasera. Primo argomento di stasera sarà riguarda un fatto molto grave che ha subito un prigioniero nostro, cui siamo in corrispondenza, che è Alessio Attanasio, recluso nella sezione AS1 di Massama, cioè il carcere di Oristano in Sardegna. Ricordiamo un inciso, Alessio Attanasio è un prigioniero che è da 20 anni, se non sbaglio, stato recluso in 41 bis, si è girato tutte le sezioni d'Italia del 41 bis, ha attraversato tutte le tipologie, perché dai primi 2000, insomma, magari la situazione è un po' cambiata ad oggi, questi 20 anni per associazione mafiosa, cioè per reati connessi all'associazione mafiosa sulla base di accuse di un pentito. E nel luglio 2022 Alessio è stato scarcerato, perché ha terminato praticamente, sono venute meno le ragioni per cui lui avrebbe dovuto star dentro, e ha passato una settimana fuori di prigione, improvvisamente dal 41 bis alla libertà, diciamo, e la settimana successiva è stato rincarcerato, questa volta in regime, diciamo, non di 41 bis, in alta sorveglianza, e che è la sezione dove passano appunto chi esce dal 41 bis. Quindi torniamo a Oristano. I primi giorni di gennaio Alessio ha subito due gravi soprusi. È una notizia che ha cominciato a circolare, insomma, anche sui siti di soliti di Controinformazione, il 2 gennaio, per impedire ad Alessio di telefonare al suo legale, un gruppo di secondini ha cercato di strangolarlo. Solo l'intervento di altri detenuti presenti ha impedito che l'aggressione avesse conseguenze gravi. Nonostante i numerosi testimoni e il fatto che l'aggressione sia stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, Alessio è stato colpito, ovviamente funziona così, nel senso automaticamente, da provvedimento disciplinare, naturalmente per essersi difeso, se sarà preso la resistenza, cosa del genere, resistenza pubblico ufficiale, eccetera, nonostante appunto che si stesse difendendo dal tentativo di essere strangolato dai secondini. Alessio ha, questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che gli stessi secondini, la stessa squadra, si è rifiutata di consegnargli una sedia con schienale prescritta dal medico per alleviare i dolori causati da una lombosciatalgia cronica, e anche su questo fatto Alessio lo conosciamo, tra l'altro, perché è veramente una persona che non si arrende mai e combatte in tutti i modi i soprusi che vengono compiuti a suo danno quotidianamente, insomma, e non lascia perdere nulla di quello che gli viene fatto, e fa dei reclami in maniera anche, insomma, molto così assidua, anche assillante, nelle parole delle autorità. E numerose volte vince questi, tra l'altro, parentesi, ne abbiamo letto anche una puntata precedente, se ricordate, abbiamo letto anche delle parti del suo lavoro, del suo libro che ha scritto qualche anno fa, L'inferno dei regimi differenziati, Alessio Attanasio. E cosa c'è ancora da dire? Nella denuncia che ha preparato Alessio, vengono chiamati in causa anche, oltre ai secondini, anche il personale, diciamo, civile del carcere, la direttrice, l'educatrice, la criminologa, che hanno cercato di insabbiare i fatti. Alessio chiede di diffondere, ha chiesto anche, tra l'altro, anche a noi, ha scritto alla nostra casella postale per chiedere di diffondere questa notizia, perché si tratta comunque, adesso diciamo quello che ha scritto lui, si tratta di prassi penitenziarie ancora in uso in molti istituti che vengono avvallate da direttori, educatori e criminologi. Se volete scrivergli, l'indirizzo del carcere di Oristano è Alessio Attanasio, località su Pedriaxiu 09170 Massama Oristano. Questo è quanto avevo da dirvi. Trying to add 10,000 more. Sente, oh. Non si no. Sente. Noi non sentiamo. Eccoci qua, e ovviamente tutto quello che è un po' accaduto adesso fa parte della diretta radiofonica qui di Radio Onde Furlane, del nostro programma Cazzardins Magnetics, e andremo avanti fino alle 21.30 e magari avete sentito altre voci in sottofondo, ma chi se ne frega. Comunque noi stiamo ascoltando gli Interterrestrial Band dell'area londinese, dalla loro ultima uscita The Plague Tapes, live all'Overdrive Studios di Deptford a Londra. Human, but that's Allora Flavio, sono uscita da poco da Alfredo, la situazione diciamo che è in lento peggioramento perché lui ormai termoregola malissimo, ha 4-5 maglie addosso, ha 3 paia di pantaloni e dà sempre freddo. Mi ha detto che non ce la fa più ad uscire e a camminare come io gli avevo detto nell'ora d'aria, si sente molto molto debole, per cui sta facendo uso anche della sedia a rotelle e questo lo avvilisce molto. Peraltro ieri ha avuto l'idea di farsi una doccia, forse per scaldarsi, non so quanto siano riscaldate queste celle a questo punto. Si è fatto una doccia verso le 11:30 di notte ed è caduto rovinosamente perché ha avuto un'ipotensione importante ed ha sbattuto la faccia, per cui si è rotto le ossa del naso. È stato portato in pronto soccorso, successivamente in clinica Torino, dove è stato fatto il tamponamento nasale perché aveva un sanguinamento abbastanza importante, un'epistassi. Adesso questo sanguinamento è finito, gliel'hanno anche rimessa a posto perché era una frattura scomposta, gli hanno rimesso a posto la frattura e lui non riferisce dolore, gli hanno dato degli antidolorifici al bisogno. Per il resto gli elettroliti stanno calando ulteriormente, il potassio è ancora normale, il sodio scende, questo ci può dare un'idea della possibilità che si possano creare degli edemi anche cerebrali, speriamo di no. I globuli bianchi, quindi tutto il sistema immunitario, globuli bianchi, linfociti e anche le piastrine che servono per la coagulazione del sangue sono ridotti, quindi c'è diciamo un forte deficit nella sintesi di queste proteine, ovviamente perché le proteine vengono usate per formare glucosio e glicogeno che serve ad altri organi, soprattutto al cervello. Per cui la situazione è questa, Flavio. Niente. Jackiev e Biden in call. E torniamo in diretta su Zardins Magnetics. Questa che avete ascoltato era il report della dottoressa cardiologa di fiducia di Alfredo Cospito, Angelica Milia. Come avete sentito, la situazione è un po' precipitata, un po' preoccupante, diciamo era anche prevedibile. Comunque, viste le premesse, dobbiamo dire ancora una cosa su questa vicenda. Questa dobbiamo dire. Qualche giorno fa la dottoressa Angelica Milia è stata diffidata dal Ministero della Giustizia, cioè da Carlo Nordio, nell'apparato, appunto, poi nel Dipartimento Amministrazione Penitenziaria DAP. La firma è di un altro funzionario, però ricordiamolo che il ministro è lui, è stata diffidata dal continuare a fare dichiarazioni all'emittente radio Onda d'Urto, al fine, cito, di non vanificare le finalità del regime di cui all'ex articolo 41 bis ordinamento penitenziario. Cioè praticamente il ministero, il DAP, ha mandato all'avvocato di Alfredo, che è Flavio Rosso Albertini, ha mandato questa autorizzazione affinché appunto la dottoressa potesse visitare il detenuto, però appunto aggiungendo contestualmente che secondo loro deve smetterla di dare notizie sullo stato di salute. Non lo dicono, però dice loro, chiaramente dicono, falsificano le cose, dicono al fine di non vanificare le finalità del regime di 41 bis. Ma che cos'è quello che fa la dottoressa? È dare notizie, diciamo aggiornamenti puntuali sulla situazione appunto che è precaria del compagno che si trova in sciopero della fame da 100 giorni, fra poco, è una persona che digiuna da 100 giorni, è prevedibile che abbia delle problematiche sanitarie, e questo è quello che fa l'autoressa. Non è che possono inventarsi sempre queste così fantasie da inquisizione continuamente e mettere dei divieti, dei bavagli ai professionisti, tra l'altro, che svolgono il loro diciamo, lavoro. E, di iniziative. Sì, si può aggiungere anche un'altra cosa rispetto a questo discorso qua del DAP e dell'atteggiamento. L'avvocato Rossi Albertini, appunto, aveva anche chiesto un trasferimento di Alfredo in un carcere con centro clinico, vista la situazione che sta precipitando, appunto, dal punto di vista della salute. E con un comunicato ufficiale il DAP praticamente ha negato questa possibilità. Leggo letteralmente: risulta a questa direzione che le condizioni del detenuto Alfredo Cospito al momento siano stabili e che lo stesso riferisce benessere psicofisico. Questa si legge nella nota inviata all'avvocato Flavio Rossi Albertini. Il soggetto appare tranquillo, si legge nella presa di posizione assunta formalmente dal DAP solo ieri, mercoledì 25. Quindi, oltre a questo tentativo di intimidazione che per fortuna non è riuscito, nel senso che la dottoressa è una persona determinata e non si fa di certo intimidire da questi stupidi assassini, e quindi ha continuato a riferire relativamente allo stato di salute, come è giusto che faccia e è suo diritto fare. E questi qua del DAP continuano dicendo, appunto, negando questa possibilità di trasferimento in un carcere con centro clinico, che permetterebbe di intervenire più prontamente in caso di malaparate. E il DAP, appunto, prosegue dicendo: Cospito continua le attività sociali e usufruisce del tempo di permanenza nei passeggi. È regolarmente seguito sia dal cardiologo dell'ASL sassarese che dal cardiologo di fiducia. E le prescrizioni di entrambi vengono scrupolosamente osservate. In caso di necessità della richiesta di trasferimento presso altro istituto penitenziario dotato di assistenza intensivo, potrebbe essere avanzata dal competente dirigente sanitario dell'istituto. Insomma, l'avvocato dice: sì, questi qua chiaramente non hanno nessuna intenzione, temporeggiano, non hanno nessuna intenzione. E un'altra notizia veramente imbestialire, e la Cassazione, che non si era pronunciata, appunto, relativamente alla prossima data dell'udienza in cui verrà discusso il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che, appunto, aveva confermato l'applicazione del regime di 41 bis per Alfredo, ha fissato questa udienza al 20 aprile, quindi una cosa assurda, cioè che è assolutamente incompatibile con le condizioni di salute di un recluso in sciopero della fame da ormai quasi 100 giorni. E quindi, la difesa chiede di anticipare la data, ovviamente a causa di delle condizioni di salute. E questo per dire con che gente, con che sistema di veramente assassino si ha a che fare. Thank you. Ci stiamo ascoltando questa band, anche questa è una band londinese, esattamente della zona sud di Londra. Loro sono i storici, band storica dell'anarcho-punk, i Conflict, dal loro album datato 1986, The Ingovernable Force. Allora, siamo sempre su Jardins Magnetics e allora in questi giorni ci saranno tantissime iniziative di strada, di piazza, presidi, manifestazioni, iniziative varie in solidarietà e in appoggio alla lotta di Alfredo e per, contro il 41 bis, contro l'ergastolo, contro le galere. E non sto a darvi tutte le date, comunque nei siti di controinformazione ci sono tutte. E parleremo poi invece di due iniziative che ci saranno in regione, a Trieste e a Udine. Però volevo velocemente dirvi alcune cose, alcune iniziative che sono state prese, diciamo, da dentro le galere oppure nei tribunali, sempre in solidarietà con Alfredo, ma anche ampliando, diciamo, la lotta, cioè riportando, diciamo, la lotta di Alfredo anche in cose più piccole, magari però importanti all'interno delle galere. Allora, intanto c'è stata il 13 gennaio scorso questa battitura nella sezione AS2 del carcere di Alessandria, battitura fatta da Nicola De Maria, il compagno che aveva anche fatto una, si era rifiutato di rientrare dall'aria qualche tempo fa, sempre in solidarietà con Alfredo. E vado a leggere il comunicato su questa battitura. Ci dice: Nicola, basta, non siamo polli d'allevamento. Nel carcere di San Michele, Alessandria, i prigionieri in AS2 sono stipati in 10 in una sezione di 7 celle cubicolari, senza saletta di socialità, con un passeggio di 5 metri per 5. Venerdì 13 gennaio 2023 è stato annunciato l'arrivo di un altro prigioniero. È necessaria una sezione adeguata al numero di persone, con un passeggio normale, con spazi per la socialità e in generale con condizioni di vivibilità dignitose, in cui siano garantite attività fisiche e di studio, attualmente impossibili a discapito dell'integrità psicofisica dei prigionieri. Per queste ragioni e ancora contro il 41 bis ho effettuato una battitura. Ecco, questo era il comunicato di Nicola De Maria su questa sua iniziativa. Poi volevo darvi notizia anche di un'altra iniziativa che è stata presa dentro il tribunale da parte di un compagno, David. Ne abbiamo parlato in quanto lui è stato colpito da estradizione, mandato di estradizione europea e è stato, insomma, è in carcere adesso a San Vittore e con per l'infame accusa di devastazione sacca. E vabbè, questa dichiarazione sua risale al 2 dicembre scorso, durante l'udienza del processo Rompere il Silenzio nel Tribunale di Milano. E anche, diciamo, questa dichiarazione è stata data anche come motivazione per non rientrare, per il fatto di non essere rientrato dall'aria per un'ora a San Vittore da parte di David, sempre in solidarietà con Alfredo. E, lui dice: il motivo per cui oggi ho scelto di stare in quest'aula e presenziare a quest'udienza è uno solo. Ho deciso di essere qui ed usare questo mezzo, la dichiarazione spontanea, perché è uno dei pochi che la condizione di detenuto mi lascia. E poi dice: voglio usarla per urlare la mia rabbia verso una situazione che voi uomini e donne di tribunale dovreste conoscere. Mi sto riferendo alla condizione detentiva del compagno Alfredo Cospito. E poi lui dice: faccio una premessa, l'atto che ha portato Alfredo in carcere e da lui stesso rivendicato in aula è la gabbizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, in conseguenza del disastro atomico e conseguente strage della centrale di Fukushima. Per questo, a mio avviso, quest'atto fa parte a pieno titolo di tutte quelle luci che hanno illuminato da più di un secolo il cammino di molti sfruttati e ribelli, tra cui io. E poi dice questa cosa che secondo me è molto significativa: non voglio qui perdere tempo chiedendo umanità o facendo l'elenco delle immani restrizioni che questa detenzione prevede. Come scriveva Machiavelli, qualunque Stato, sia esso monarchico o repubblicano, basa la sua opulenza, la sua ricchezza e la sua forza sul delitto. Per me, semplice persona che prova a vivere da anarchico, è impensabile chiedere giustizia a quest'ultimo o a uno dei suoi rappresentanti, ma qualunque azione tesa ad aumentare la forza della lotta di Alfredo contro il 41 bis può avvicinare alla necessità a lui e a noi più prossima, averlo in salute e in contatto con i suoi affetti. Per il declassamento di Alfredo, per la fine delle gabbie fisiche e mentali che rendono possibile lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura, per l'anarchia, David. Questo era il suo comunicato molto bello, significativo. Poi ecco, volevo dare notizia del fatto che il 23 gennaio, quindi 2 giorni fa, Ivan Allocco ha terminato lo sciopero della fame che aveva cominciato il 22 dicembre, quindi dopo 32 giorni. E gli auguro, ci dice, molta forza in questo momento difficile e ringrazio tutte quelle e quelli che mi hanno sostenuto in questi 32 giorni e più in generale che mi sostengono da 7 mesi e mezzo, quindi Ivan dal carcere di Villepinte in Francia. E poi volevo darvi notizie anche di questa dichiarazione spontanea che la compagna e i compagni inquisiti per l'operazione Prometeo hanno cercato di fare in tribunale. Aspettate che cerco un attimo, in tribunale in occasione di un'udienza che forse sarà l'ultima udienza della che riguarda appunto questa operazione repressiva. Non lo trovo. Allora, dunque, scusate, ma non lo trovo. Before the summer rain, maybe I'll be back again. sono. Anche loro hanno approfittato del fatto della presenza in tribunale, del fatto che insomma come imputati hanno diritto a delle dichiarazioni spontanee, per in apertura del dibattimento, per leggere la seguente breve dichiarazione. Genova, 23 gennaio 2023. La questione della solidarietà per noi anarchici è fondamentale e dirimente. Per questo oggi non possiamo esimerci dal prendere la parola in quest'aula, sapendo che c'è qualcuno che viene impedito di farlo. Alfredo Cospito si trova oggi al 96esimo giorno di sciopero della fame nel carcere di Bancali-Sassari, per protestare nell'unica maniera che gli è concessa, nella tomba per vivi in cui è rinchiuso, contro gli abomini repressivi del 41 bis e dell'ergastolo ostativo. Le istituzioni tutte stanno dimostrando la loro ferocia democratica, trincerandosi in un mutismo che sa di ritorsione e inettitudine. Se questa dunque si pretende un'aula di giustizia, nessun uomo e donna di coscienza dovrebbe restare seduto a svolgere serenamente il proprio lavoro, consapevole del fatto che le lancette per Alfredo stanno per fermarsi sull'ultima ora, minuto, secondo, in un carcere di questo stato in odore di tortura. Un grido dovrebbe levarsi laddove la giustizia fosse sovrana, reale e possibile. Contro il 41 bis, contro l'ergastolo ostativo, per l'immediato declassamento di Alfredo Cospito. Nat Beppe Libertà, scusate, Nat, Robert e Beppe. E ecco, questa era la loro dichiarazione spontanea. Vado io e mi aggancio, perché volevo aggiungere un aggiornamento di oggi. Purtroppo le cose qua non sono proprio tanto rose, ne succede una al giorno. Leggo il comunicato. Stasera presidio solidale per Tonio, ore 21, carcere di Sollicciano, quindi siamo a Firenze. Ieri mattina hanno arrestato un nostro compagno, Tonio, mentre usciva da Corsica. Gli inquirenti parlano di 6 attacchi alla linea dell'alta velocità tra Firenze e Bologna. Non sappiamo chi abbia compiuto questi attacchi, ma non fatichiamo a immaginare quali siano le motivazioni che potrebbero aver spinto qualcuno ad agire. Chiunque abiti o conosca il Mugello sa di cosa parliamo. In realtà basta fare una ricerca di 2 minuti su internet per capire cosa rappresenta il TAV per il Mugello. I giornali evocano la strategia della tensione, confidando nella scarsa memoria di questo paese, come se l'odio dello Stato e dei fascisti verso il movimento di allora e il disprezzo che mostrarono per la vita umana possano essere associati all'amore per un territorio e per quella vita che proprio il TAV ha distrutto e continua a distruggere. Era il 2012, dopo solo 3 anni dal primo treno partito, e già erano stati calcolati 57 chilometri di corsi d'acqua persi. 57 chilometri. Una tragedia annunciata sin dal progetto iniziale, un ecosistema distrutto, anche secondo la stessa magistratura che oggi accusa Tonio, che condannò ben 19 tra dirigenti e direttori dei lavori per quello che era un disastro troppo evidente per essere insabbiato. A essere insabbiate furono invece proprio le stesse condanne, annullate con un colpo di spugna finale della Cassazione. Ma non è per ignoranza che si associano queste azioni alla strategia della tensione. Come si trasforma il danneggiamento di un quadro elettrico in una punizione esemplare? Aspetta, com'era la risposta? Ah già, il terrorismo. Il punto della questione è sempre più evidente. Quando si parla di pene, non è importante cosa hai fatto, è importante chi sei. È importante chi sei, quali sono le tue idee e quanto si teme che possano diffondersi. In questi giorni Alfredo Cospito sta morendo pur di non sottostare al regime di tortura del 41 bis, regime che gli è stato inflitto per una strage che non poteva ferire nessuno e non ha infatti ferito nessuno a parte il cantiere di una scuola carabinieri. Sempre questa settimana ad altri 3 compagni di Corsica sono stati notificati altrettanti avviamenti di indagini per associazione sovversiva con finalità di terrorismo per aver partecipato a un imbrattamento al comando militare della Sardegna, in cui una torcia è stata lanciata su della vernice prendendo inavvertitamente fuoco. Totale dei danni dell'azione, 3 nanosecondi di fiamme accidentali e una macchia nera su una parete. Questa è la realtà in cui ci troviamo ad agire. La cosiddetta giustizia distorce come sempre se stessa quando si tratta di colpire chi lotta. A Tonio va tutta la nostra solidarietà. Tonio libero, tutti liberi. Poi c'è l'indirizzo per scrivergli, perché il compagno, come ha detto, è stato arrestato, è in galera, dovrà rispondere di queste accuse. Antonio Recati, un altro compagno che si aggiunge alla lista. Antonio Recati, carcere di Sollicciano, via Minervini 2R R di Roma, è scritto qua, insomma, leggo quello che mi hanno scritto. 50-142 Firenze. In an urban society, everything connects. Each person's needs are fed by the skills of many others. Our lives are woven together in a fabric. But the connections that make society strong also make it vulnerable. No more, and it's plain clear through their resistance. My plans are staying on. spokesman, and that came from four people from the real world like the rest of us. We now had a voice, and in turn, our message getting louder. Nothing there could stop us rising up to meet their fast advancing challenge. When the drums can they crumble, is the flock with easy prey for the state's clever weapon money. Prove too tasty once again. We passed the business check, we opened up and then swallowed. The leash is sucked hard, sliding. We couldn't believe the scenes that followed. Punch up, roll up, bodies up in an air. Bases posted, bodies pushed, coming for your air. Locked in, they flock to buy punk rock and pass the new threat. The country laughed and screamed punk rock and now some punk was dead. We stood and could only watch as they took everything we stood for and made a mockery of it. The four feeding finals stuck back into the system they supposedly despised. What was once the black flag of anarchy was now the colours of the Union Jack. Abbiamo ascoltato ancora i Conflict, band storica dell'anarcho-punk inglese dell'area di Londra, e questo era il loro album datato 1986, The Ingovernable Force. Ma ora andiamo invece all'ascolto di questa band italiana della zona di Fano, band che non esiste più, e comunque noi ci ascoltiamo da un CD compilation, cioè dove hanno raccolto le loro precedenti uscite nel 2004, l'uscita di questo CD, questo album compilation, e loro sono Un Quarto Morto, il nome di questa band di Fano. Vorrei chiedervi un favore, tutto quello che vuoi. Volevo chiedervi se potete spararmi. We'll be right back. Zardins Magnetics, sono le 21:08 minuti in questo istante, siamo in diretta dagli studi di Via Volturno a Udine. Chiudiamo il discorso su Alfredo, perché sabato 28 gennaio tutti a Trieste, sabato 28 gennaio ore 15, corteo, partenza da Campo San Giacomo alle ore 15, come ha detto, sabato pomeriggio, quindi alle 15 in Campo San Giacomo, e si partirà a fare questo corteo in solidarietà con la lotta di Alfredo. Scrivono i compagni di Trieste, vi leggo, è la, quella del carcere in regime di 41 bis per Alfredo, è la feroce vendetta di uno Stato che, dichiarandosi democratico e civile, usa tutta la sua violenza istituzionale per reprimere chi non ha mai abbassato la testa, i suoi nemici giurati. Tortura è sempre tortura, carcere duro, ergastolo senza fine o benefici, regimi differenziati, stragi nelle carceri, come accaduto durante le misure sanitarie d'emergenza con 14 detenuti ammazzati. Qualunque sia la retorica che li giustifica, rimangono delle pratiche indegne da fermare immediatamente. La loro funzione, come per tutte le disposizioni emergenziali cui abbiamo subito le conseguenze anche negli ultimi anni, è rendere la barbarie una pratica permanente, accettata per paura o convenienza. Con la cosiddetta lotta al terrorismo, da ormai decenni, una scure repressiva è stata calata sulla società. Sorveglianza, inasprimento delle pene, fino alla punta più avanzata, i regimi carcerari. Grazie ad Alfredo. Sì, scusatemi. Grazie ad Alfredo si è aperta una crepa. Guardiamoci oltre. È il momento di prendere posizione, sostenere chi lotta con l'unica arma che gli rimane, il suo corpo, decidendo di dedicare la sua vita alla denuncia di questi trattamenti. No 41 bis, no tortura, per l'abolizione dell'ergastolo ostativo e dell'emergenzialismo penitenziario. Quindi sabato pomeriggio, ribadisco, tutti a Trieste, in Campo San Giacomo, si parte alle 15, il concentramento alle 15, in corteo, questo è un corteo per Alfredo, al suo fianco, per chiudere l'ergastolo ostativo, chiudere il 41 bis, questi regimi indegni del bel paese, cosiddetto. Stiamo ascoltando questa band statunitense, più volte passata in questa trasmissione, loro sono i Tragedy e questa è la loro ultima uscita, datata 2018, un EP 12 pollici che si chiama Fury. Let's go. Ecco, e alle 21:13 diamo notizia anche di un'altra iniziativa, un presidio questa volta a Udine, non a Trieste, un presidio in solidarietà con chi lotta, presidio che si terrà lunedì 30 gennaio alle ore 14, a partire dalle ore 14 circa, all'esterno del carcere di Udine. Allora, vi leggo il volantino di indizione. Il presidio l'abbiamo organizzato come assemblea permanente contro il carcere e la repressione, anche perché quel giorno, cioè lunedì 30 gennaio, abbiamo un'udienza per un processo a nostro carico e per istigazione e diffamazione, sempre per aver dato voce ai prigionieri delle carceri di Udine e Tolmezzo specificamente relativamente alle condizioni sanitarie di quelle due galere. E scriviamo sul volantino di chiamata: lo scorso 7 novembre Leudi Gomez, triestino di origine dominicana di soli 22 anni, è stato trovato senza vita nella cella di isolamento del carcere di Udine, dove era stato trasferito da un anno circa. Leudi si trovava in isolamento per un diverbio con una guardia e aveva passato la notte al freddo, senza neanche un lenzuolo per coprirsi. I detenuti del carcere di Via Spalato si sono rapidamente mobilitati per la morte di Leudi e per le condizioni materiali insopportabili, con una battitura collettiva passata anche su una TV locale. Non solo una battitura, a quanto pare, in seguito è emerso da fonti giornalistiche che in quella protesta sarebbero stati causati danni per migliaia di euro. Il 28 dicembre scorso i prigionieri di Via Spalato hanno di nuovo protestato incendiando un materasso, il che ha indotto l'amministrazione a far chiudere temporaneamente una sezione del carcere. In questa cornice, il garante cittadino delle persone private della libertà, invece di provare a fare il proprio mestiere, si mette a fare politica, stigmatizzando le mobilitazioni e insinuando che se le condizioni di Via Spalato sono insopportabili, la colpa sarebbe della popolazione ristretta e della sua incapacità di stabilire un confronto democratico con l'interlocutore, cioè di elogiare continuamente l'apparato, come fa lui, e obbedire. In questo suo atteggiamento non riesce però a nascondere il fatto nudo e crudo che la democrazia è un regime autoritario. Per rendersene conto basterebbero gli ultimi 3 anni di umiliazione della dignità umana realizzata dallo Stato con presunte finalità etico-sanitarie. Lo Stato vuole presentarsi come attento, sensibile, civile, usando il tradimento di coloro che collaborano con le sue emanazioni per accedere alla libertà vigilata e illusoria che viene concessa. È questo che lo Stato esige da noi, collaborazione ed elazione. Da giorni i notiziari sono infestati di propaganda con dettagli sulla cattura del grande boss di Cosa Nostra. I mafiosi, tra virgolette, che sciolgono i bambini nell'acido, meritano il regime di 41 bis, si ripete. Un'esibizione di moralismo che contraddice la funzione del 41 bis, che è quella di torturare per portare i prigionieri a collaborare, cioè a fare nomi di qualcun altro da mettere al proprio posto e comprarsi quindi la scarcerazione a spese altrui. La lotta del compagno anarchico Alfredo Cospito in sciopero della fame dal 20 ottobre contro il regime di 41 bis per sé e per tutti e tutte sta dimostrando la possibilità di stare al fianco di qualcuno, anche sconosciuto, fino alla morte. Ed è anche avendo in mente questa lotta e sostenendola che siamo con i prigionieri del carcere di Udine, che hanno deciso di ribellarsi all'invivibilità, al dolore, alla disperazione che lo Stato offre loro. Lunedì 30 gennaio saremo sotto processo davanti al Tribunale di Udine con le accuse di istigazione e diffamazione per aver denunciato le vessazioni nei loro confronti e la mala sanità imperante in questa galera e in quella di Tolmezzo. E così vogliamo andare avanti a fare, senza piegarci alle loro intimidazioni giudiziarie. No torture per un mondo senza galere. Ecco, questo era il volantino di chiamata appunto al presidio che si svolgerà lunedì 30 a partire dalle ore 14 circa davanti al carcere di Udine. Ricordo ancora anche l'appuntamento di sabato 28 a Trieste, corteo per Alfredo e per tutti i prigionieri e le prigioniere in lotta contro il 41 bis, contro l'ergastolo ostativo. Ci si trova in Campo San Giacomo alle ore 15 e poi si parte. Vabbè, per questa sera io vi saluto e alla prossima. Ancora Tragedy, come già detto e presentato prima, dal loro EP 12 pollici, loro ultima uscita, Fury. Bene, se questi sono i Tragedy, appunto dal loro l'ultima uscita discografica datata 2018, il 12 pollici Fury. Ora invece passiamo ad una band italiana della zona di Roma ed è, diciamo, l'unica loro uscita ed è datata 2002. Loro sono i Threat of Riot. E teniamo in sottofondo questa band romana, i Threat of Riot, perché siamo ormai giunti al termine di questa trasmissione, mancano pochi minuti, quindi tocca salutarci e l'appuntamento rimane per il prossimo giovedì, sempre qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20 alle 21:30. Ma prima di salutarci definitivamente vi do i nostri contatti, che sono la posta elettronica liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci direttamente e intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto anche questa, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre, chi volesse riascoltare questa trasmissione e anche le trasmissioni avvenute le settimane scorse e nei mesi scorsi può andare ad ascoltarla su zardismagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardismagneticsradio.noblogs.org. e inoltre chi vuole domani questa trasmissione anche va in replica su Radiazione, che è una web radio, dalle ore 17. Bene, allora in sottofondo, come ho detto, ci sono i Threat of Riot, ascolteremo la fine di questo brano per poi salutarci con l'ascolto con un brano che abbiamo preparato dei Fugazi, band statunitense, col brano Waiting Room. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì. Thank you.